pensa già nel clamore di un momento, la libertà, tutto quello che c'è stato non conterà, come se ricominciasse tutto da lei. Ho lettere d'amore che scriverò, ho parole importanti che ti dirò, ho già sere sfocate dal vino e un mattino che non ti ritroverò qui. Il ricordo di un lontano aprile, l'attesa di giorni su giorni che finiranno per scrivermi in faccia la rabbia e il rimpianto, un segreto però lo terrò. Non saprai mai cos'è questo amore che ancora ti chiede, mi chiedo, ma quando? Quando ti desterai ebro di lei? Sei fragile solo. Del tuo cuore non capirà, perché nel vuoto di un istante perderai tutto quello che c'è stato. L'amore tuo sembrerà così distante, dove sarai? E lettere d'amore rileggerò, le parole non dette diventeranno canzoni per fermarti un attimo ancora, per dirmi che è stato così, che qualcosa è successo davvero, è bastato a correggere il senso che davo alle cose. Tutto rinasce di nuovo da qui, tutto il resto comincia da te. Anche se non ci stai più pensando, anche se sono solo.